e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci, allora siamo ritornate a casa dentro il nostro recinto radiofonico, cioè entrambe un concetto animalesco, quindi pronte naturalmente a riprendere in mano i nostri temi tradizionali. Non che non l'avessimo, non che non l'abbiamo fatto negli ultimi due giorni, perché abbiamo parlato di cibo con le declinazioni cuore e denari da Tutto Food. Oggi che si fa invece la ricetta del giorno, cosa contempla? Allora, vuoi che te lo dica già subito? Sì, subito, perché intanto, abbiamo un sacco di argomenti da affrontare. Va bene, allora, intanto parleremo del nostro progetto, torniamo a parlare della Salute Viem Parlando, il progetto che con l'iniziativa che ci vede insieme ad Humanitas, mese dedicato al naso, all'apparato respiratorio. Non potevamo scegliere mese migliore, ci aiuta anche il tempo, perché è comunque inverno e quindi pieno, e allora direi, i nostri ascoltatori continuano a scriverci e a chiedere. Poi ci sono pure le allergie, poi non andremo tanto lontano perché dal naso saliremo su e parliamo di mal di testa. Siamo nel cuore della settimana del mal di testa, ci sono delle indicazioni che vogliamo dare ai nostri amici che ne soffrono. Benissimo. Per capirne di più e per imparare a gestirlo e perché no a prevenirlo. Ci sono degli errorini che bisogna evitare di commettere. Allora, per quello che riguarda invece i denari, fra un po' vi anticipo tutto quello che succederà la settimana prossima a Rimini, all'IT Forum, ma la cosa più importante che succederà è che ci saremo io e Nicoletta a movimentare un po' questo evento dell'investment trading. Fra un po' il direttore generale Mauro Pratelli ci anticiperà tutto. Per l'approfondimento di denari torniamo sulle banche, sul monito lanciato due giorni fa dal presidente uscente della Consob Giuseppe Vegas, che ha detto: questo bail-in non funziona, ha bisogno di correttivi, ma intanto questo abbiamo, e ritorneremo a fare l'ABC per i nostri ascoltatori sul funzionamento del meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie. E poi, importantissime, ci sono delle novità per gli azionisti di Veneto Banca, quelli che non hanno aderito alla proposta di transazione di qualche settimana fa. Ci racconterà tutto Maria Stella Anastasi della Lega Consumatori. Per cui direi che possiamo partire ricordando ai nostri ascoltatori che però possono anche fare una chiacchiera con noi. Come? 800 24 00 24. Vado veloce perché ho visto che hai impostato un po' il format architetto. Andiamo e con questo e con la sviperata del giorno partiamo. Voilà. Via. A buon intenditor, poche parole, la borsa oggi è negativa, Milano perde lo 0,47%, Parigi meno 0,31%, Francoforte meno 0,18%, Londra meno 0,10%, fra un po' c'è un'asta bot impegnativa per il tesoro italiano, ma questi sono i temi che noi affrontiamo domani a Cuore e Denari, investire informati. Invece un'altra iniziativa carina che voglio raccontarvi oggi è il CAF Day, è il primo CAF Day, è un evento lanciato dai CAF di tutte le associazioni di rappresentanza economica, sindacale, del mondo cattolico, delle professioni che compongono la consulta nazionale dei CAF, centri di assistenza fiscale, che stiamo frequentando parecchio in questi giorni perché stiamo tutti dandoci da fare con la dichiarazione dei redditi. Più di 10.000 uffici territoriali, oltre 20.000 dipendenti, collaboratori sono impegnati in tutte le città italiane a promuovere questa iniziativa, che peraltro viene animata anche da una raccolta di selfie di tutti gli operatori sul territorio, ma anche degli utenti che vogliono appunto appoggiare questa giornata, che è un po' anche una giornata di protesta, se vogliamo, perché i CAF si stanno lamentando di quello che è successo negli ultimi giorni. C'è uno sviluppo della vicenda ISEE. Dal 15 maggio i CAF hanno deciso di sospendere, lo faranno dal 15 maggio, il servizio ISEE a tempo indeterminato, in attesa, dicono, di avere risposte dall'INPS e dal Ministero del Lavoro sul rinnovo della convenzione scaduta il 31 dicembre scorso. È una decisione che è stata assunta alla unanimità dai responsabili appunto dei CAF riuniti in assemblea, e quindi se andata ad un centro di assistenza fiscale volete un aiuto per elaborarvi appunto l'indicatore della situazione economica vostro e della vostra famiglia, i CAF non ve lo compileranno nei prossimi giorni proprio per questa iniziativa di protesta. Magari venerdì ci faccio una puntata apposita per capire le ragioni di questa contestazione e come possono fare i contribuenti che hanno bisogno di questo documento. Allora, noi monitoriamo i mercati finanziari, facciamo approfondimenti di educazione finanziaria, siamo spesso ospiti di eventi in cui è protagonista l'industria del risparmio e dell'investimento. Io e Nicoletta, insomma, ci siamo anche divertite al Salone del Risparmio a metà aprile, e invece settimana prossima torneremo a Rimini al IT Forum, l'Investment and Trading Forum, che è giunto alla sua 18ª edizione. Ci saremo con la diretta di alcuni dei nostri programmi, 2 giorni di Cuore e Denari, 2 convegni entrambi giovedì 18 nel pomeriggio. Il primo è Febbre da Trading, il secondo Risparmio o Investo. Sono i 2 convegni di Radio 24, ma ce ne sono tantissimi ad animare queste 2 giorni di manifestazione. Una manifestazione ricca che sta provando anche a cambiare pelle, ad arricchire i suoi contenuti, per cui ci anticipa tutto Mauro Pratelli, direttore di IT Forum. Mauro, buongiorno e ben ritrovato a Cuore Denari. Buongiorno a tutti. Allora, facciamo subito il biglietto col microfono aperto, lo saluti meglio. Buongiorno, ci sta aspettando, Buongiorno. Sono pronti? È pronto il comitato? È pronto il comitato accoglienza? Attenzione, perché poi chi ha allergie, se devo parlare di allergie, venire al bar a IT Forum in questo periodo, no? Uno va un po' a IT Forum, poi fa una passeggiatina. Una passeggiatina in spiaggia è bellissimo. Ma lui lo fa per quegli allergici, mica per gli investitori, Mica uno può essere allergico a investitori, 2 cose non sono, diciamo, contrapposte. Io ad esempio sono allergico, e vi assicuro che uscire da IT Forum, andare al mare, vedere in questo periodo questa spiaggia enorme, vuota, con il sole come si prevede, ottimo, fantastico. Allora, dall'anno prossimo la grande novità dell'IT Forum è farlo durare una settimana invece che di solito 2 giorni. Questa è una buona idea. A parte questo, Pratelli, facciamo il biglietto da visita di questa 18ª edizione, perché quest'anno siete maggiorenni. Esatto, quali temi si punta allora per la maggiore età, oltre che sull'attualità finanziaria? Di che cosa si discute quest'anno? Esatto, allora, oltre ad essere ovviamente il punto di riferimento per trader, investitori e anche consulenti, perché da molti anni ormai questo siamo, quest'anno sicuramente il tema nuovo è fintech, la finanza digitale. È una cosa di cui si parla sempre di più, e mi ha molto colpito anche nel comunicato del presidente della Consob, Vega, esatto, che ha detto 2 giorni fa, questo riferimento molto forte a questa attenzione grande che deve essere posta verso il fintech. Ha detto esattamente: se non si vuole il far west, occorrerà procedere a regolamentare nuovi fenomeni di digitalizzazione e disintermediazione. Noi ci faremo delle puntate dall'IT Forum, esatto, sì, perché ancora magari il pubblico non si rende conto, ma siamo veramente davanti a una rivoluzione molto forte, per cui quello che erano i punti di riferimento classici del passato stanno per scomparire, giustamente, per trasformarsi molto. E quindi il fintech, considerando che abbiamo cominciato a lavorare 6-7 mesi fa all'IT Forum, siamo stati abbastanza preveggenti, no, in questo senso. Tra l'altro ci sono anche dei premi, il Fintech Age Award quest'anno, per cui riconosciamo anche l'eccellenza a strutture grandi ma anche molto piccoline. Ci sono molte strutture molto piccole che veramente è il caso di controllare e monitorare, perché magari lì sarà il nostro futuro. Quindi i servizi digitali al servizio dell'industria finanziaria, però ci saranno anche i temi di risparmio più tradizionali, e questa forse anche una novità per l'IT Forum di quest'anno, perché negli anni passati trovavano un po' meno spazio, ma avete voluto allargare il vostro raggio d'azione. Esatto. Quest'anno gli altri temi importanti sono quelli relativi alla competizione che c'è tra uomo e robot, diciamo così. È un tema che abbiamo iniziato 2 edizioni fa con i primi robot advisor, via dicendo, trading system, e abbiamo sempre più un po' una gara tra l'operatore umano, eventualmente assistito da algoritmi o da software, o sistemi completamente informatici che stanno provando a prendere il posto degli umani. Io tengo per gli umani, ovviamente, però, il robot tengo per la nostra parte, però è indubbio che certi servizi informatizzati sono molto utili, secondo me, pensando anche alla MiFID 2, no, che va in vigore dal primo gennaio dell'anno prossimo, ed è una novità legislativa che vorrà essere molto più tutelante per il risparmiatore finale. Però ecco, con accanto questa novità dei servizi digitali dell'industria finanziaria, chissà se confliggeranno le 2 cose, Pratelli. Non lo so, però una cosa molto interessante è che si stanno sto vedendo nascere servizi informatizzati che sono nati per entrambe le controparti, chiamiamole, no? Quindi il consulente viene anche ai tifosi, sì, per scoprire quali sono i supporti che potrà avere, perché dall'anno prossimo, scusate la brutalità, ma o è bravo o non lo pagano, diciamo, i suoi clienti, e questa non è una brutta cosa. Direi che è un salto di qualità interessante. Sì. E quindi cercano, soprattutto i T-Form, strumenti informatici, ma il cliente del promotore non è sguarnito, perché anche lui trova soluzioni che gli permettono di essere più alla pari nei confronti del proprio consulente. Mm-hmm. Quindi, secondo me, l'informatica apporta democrazia in questo tipo di rapporto a due. Anche perché è una rivoluzione ormai inevitabile da anni, investe tutti i campi economici, come sappiamo bene, per cui è evidente che anche l'industria del risparmio e dell'investimento non può sottrarsi a tutto questo, naturalmente a patto che, come giustamente diceva il presidente della Consob, il tutto sia regolamentato correttamente. In 30 secondi, Pratelli, poi la salutiamo. Voi organizzate anche, le società che partecipano a questo evento, tantissimi corsi per i trader che vogliono cimentarsi nel trading online, con naturalmente tutte le cautele e l'attenzione, perché non è un mondo per tutti, questo lo raccomandiamo sempre molto attentamente. Insomma, i corsi hanno sempre una grande partecipazione, così anche quest'anno, e possono intervenire tutti a DT Forum. Se qualcuno ci sta ascoltando e adesso così decide di farsi questo lungo weekend a Rimini la settimana prossima, la vostra manifestazione è aperta a tutti? Assolutamente a tutti, anzi da 18 edizioni noi siamo il riferimento soprattutto per chi inizia, perché trova in un'unica manifestazione ogni tipo di corso, di formazione e di informazione, il posto migliore per iniziare. Chi invece è esperto conosce bene gli approfondimenti che ai T-Forum sono la norma. Quindi è una cosa ad ampio raggio, veramente adatta a tutti, a tutti. Benissimo, grazie. E per gli allergici c'è il mare. C'è il mare e Nicoletta Carbone, che viene naturalmente anche a fare un po' di assistenza, certo, con i suoi professionisti su questo argomento. Esatto, mettere su apposta, come si dice, le brandine, l'ombrellone, no? Apposta per i visitatori di T-Forum. Ricordo solo di iscriversi sul sito itforum.it, perché è gratuito l'evento, aperto a tutti. Però voi volete avere ovviamente un check-up per continuare. Non si fa la fila iscrivendosi su itforum.it, che è una bella cosa. C'è spazio per tutti. Più tempo per andare al mare. Diciamo. Grazie. Grazie a Mauro Pratelli, direttore di T-Forum. Appuntamento a Rimini 18-19 maggio, settimana prossima, non solo con la manifestazione, ma anche con Radio 24, che sarà lì presente con Cuore Denari, con altre trasmissioni e con due convegni. Adesso il traffico, perché è tardissimo, dobbiamo parlare, Nicoletta, di che cosa tra qualche istante? Della salute viene parlando, di naso. Di naso. Andiamo. Cuore e denari. Allora, tirate fuori i fazzoletti, aprite bene le orecchie, noi invece... Non per piangere però. No, io li ho sempre a portata di mano, sì, i fazzoletti, perché mi cola sempre il naso, ma noi abbiamo l'opportunità di capire che cosa si nasconde dietro un naso che non funziona a dovere, che si tappa, che gocciola, che starnutisce. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Luca Malvezzi, medico chirurgo specialista in otorino laringoiatra all'Istituto Clinico Humanitas, ma soprattutto nostro specialista del mese, un mese dedicato, come sapete, all'apparato respiratorio, il nostro esperto, insieme alla dottoressa Francesca Puggioni, che si occupa invece di allergie. Dottor professor Malvezzi, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, a tutti, professore, siamo così felici di averla con noi che le voglio dedicare dei versi. E chiedo, sono dei versi famosi, e chiedo subito ai nostri amici di chiamare il nostro numero verde 800 24 0024 per dirci anche il nome dell'autore. Andiamo. Cenerai bene, mio fabullo, da me tra pochi giorni, se gli dei ti sono favorevoli. Se con te porterai una buona e abbondante cena, non senza una bella ragazza, e vino e sale, tutta l'allegria. Se porterai, dico, queste cose, mio caro, cenerai bene. Infatti, del tuo catullo, il borsello è pieno di ragnatele. Ma in cambio riceverai autentici amori, o quanto c'è di piacevole o raffinato. Infatti, ti darò un profumo che alla mia ragazza hanno regalato le veneri e gli amori. E quando tu lo annuserai, pregherai gli dèi, o fabullo, di farti diventare tutto naso. Professor Malvezzi è commosso? Siamo in effetti tutto naso, o meglio, il nostro naso, come ci ha spiegato il professor Malvezzi nella prima puntata, che ha avuto grandissimo successo, è vero, non è solo quella piccola proboscide che pensiamo di avere lì piazzata in mezzo alla faccia. Esattamente, esattamente. Poi siamo in un periodo in cui si parla tanto di cibo. Catullo? Ho indovinato? Catullo, ha indovinato, ma lei non doveva dirlo. Va bene, un libro, vabbè. Bravo, comunque ha dato anche un aiuto. Devo dire che si erano già attivati anche i nostri ascoltatori. E lei, noi l'abbiamo legato anche al cibo, perché ieri siamo stati a tutto food. Siamo ancora un po' storditi. Ma provate a tapparvi il naso e ad assaggiare un pezzetto di cibo e vi accorgerete che è difficile capire che cosa abbiamo messo sotto i denti, proprio perché si mangia anche con il naso, professor Malvezzi. Ma certamente sì, Nicoletta, anche perché bisogna tenere presente che la nostra percezione olfattiva del cibo ha, da un punto di vista neurologico, una via crociata con quella gustativa. E allora, per dirla tutta, noi sappiamo quanto sia importante per chi ama il cibo l'orgasmo palatale. Quante volte si parla di orgasmo palatale? Se noi non percepiamo professore, bene... di mattina presto! Palatale adesso! Palatale per chi ha passione per il cibo, per il buon vino, per i buoni sapori della nostra tavola, della nostra cucina italiana. E senza naso, senza un naso che funziona bene, questo può rappresentare una problematica importante. Allora, lo abbiamo già accennato tante volte di quanto sia importante il naso, anche da un punto di vista olfattivo è importante il naso, perché le diramazioni olfattive, cioè i recettori che servono per percepire il naso, si arborizzano a livello della parte alta del nostro naso. Allora, come dicevi tu, Nicoletta, se noi andiamo in giro col naso tappato, gli odori non riusciamo a percepirli, non riusciamo a percepire i sapori, non riusciamo a percepire quello che abbiamo di gustoso davanti ai nostri occhi, sulle nostre tavole. Allora, se il naso vi dà dei problemi, 800 24 00 24, ma approfittatene, perché ricordiamo che tutto il mese il professor Malvezzi e la dottoressa Puggioni sono a vostra disposizione, quindi scrivete una mail a salute@radio24.it oppure lasciate un WhatsApp vocale. Professore, abbiamo Ignazio che ci chiama da Ravenna. Certo. Ignazio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Era preparato su Catullo, Ignazio? Sì. Vedi, proprio facciamo le maestrine, eh? Catullo. E allora glielo mandiamo. Allora, Ignazio, ci racconti di lei, anzi, del suo naso. Allora, io, oltre il naso che non funziona, anche le orecchie e gola. Ho fatto diverse visite, diverse terapie. Adesso sono tanti anni che soffro di questo problema. Test allergici, chi più ne ha più ne metta, ma il problema non è mai stato risolto, quindi chiedevo se può essere qualcosa di tipo, non so, l'aria che dà fastidio, che mi dà fastidio, o qualcosa che mangio. Quindi dopo tanti anni, ecco, grazie mi Ignazio, lei cade come il cacio sui maccheroni, perché l'intervento di Ignazio dà la possibilità al professor Malvezzi, purtroppo i minuti sono veramente un po' strettini, un paio di minuti, per dare indicazioni a chi si ritrova nella situazione di Ignazio e sottolineare che l'approccio a tutti i problemi che naso e dintorni possono avere è radicalmente cambiato. Professor Malvezzi, le lascio la parola. Esattamente, esattamente così, Nicoletta, rispondo volentieri alla domanda di Ignazio, perché oggi rispetto al passato abbiamo molti più test, molte più possibilità di studiare il naso, anzi l'impegno oggi dell'otorinolaringoiatra, che non può essere considerato uno specialista individualista nella gestione delle malattie delle vie respiratorie, deve necessariamente collaborare con lo pneumologo, con l'allergologo, con l'immunologo. Oggi, dicevo, c'è la possibilità di studiare in modo più approfondito il naso e di erogare tutta una serie di esami che possano inquadrare nel modo corretto il paziente. Lo abbiamo detto anche in trasmissione, sempre più lo sforzo è proteso verso la fenotipizzazione del paziente, cioè individuare le caratteristiche peculiari di quel paziente per per poter trattarlo nel modo migliore. E Ignazio dice una cosa giustissima. Sì. Certo, abbiamo 20 secondi. L'aria che respiriamo è fondamentale. L'ho fatto una battuta in trasmissione: se noi pensiamo a come si respira a Milano e come si respira alle Maldive, alle Maldive stiamo tutti molto meglio, anche da un punto di vista climatico. Il clima incide tantissimo sulla nostra respirazione, sulle patologie delle vie respiratorie. Professor Malvezzi, allora l'aspettiamo qua per una puntata tutta dedicata, anche per sottolineare che anche la chirurgia del naso è cambiata. Continuate a scriverci, a sentirci. Il professor Malvezzi torna nei prossimi giorni. Buona giornata, GR di Nuovo Insieme. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. upmcchianciano.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, primo approfondimento, oggi tocca ai denari. Parleremo tra un po' di quello che ha detto due giorni fa il presidente uscente della Consob Giuseppe Vegas e tanti i richiami fatti nel suo ultimo intervento davanti alla platea degli operatori finanziari, il solito evento che si tiene appunto a Milano in Borsa Italiana. E prima però di tornare sui contenuti delle sue dichiarazioni, ha fatto un esplicito riferimento alle crisi bancarie, al bail-in, a come funziona, gli aggiustamenti che sarebbe necessario apportare al nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie entrato in vigore il 1 gennaio dell'anno scorso, con tanta sorpresa anche per i risparmiatori correntisti che ancora non capiscono bene la dinamica appunto di queste novità, pur essendo entrate a regime da un anno e mezzo. Prima di tutto questo, vi dicevo, abbiamo una novità da commentare. Lo facciamo, la saluto subito perché entro pochi minuti deve salutarci l'avvocato Maria Stella Anastasi, vicepresidente nazionale della Lega Consumatori. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno avvocato. Allora, la novità, la notizia degli ultimi giorni riguarda Veneto Banca, perché il consiglio di amministrazione di questo istituto di credito ha annunciato lo stanziamento di 30 milioni di euro da destinare agli azionisti della banca che non hanno aderito all'offerta pubblica di transazione che si è chiusa a fine marzo e che è stata fatta contestualmente a quella della Banca Popolare di Vicenza. E ricordiamo appunto tutti quegli azionisti che avevano appunto in mano azioni delle banche che non sono quotate ma che sono state pesantemente decurtate come valore negli ultimi anni, ma contestualmente poi questi risparmiatori non avevano la possibilità di rivendere questi, di ripiazzare questi investimenti, e qualche volta sono stati anche investimenti fatti dietro concessioni di mutui o finanziamenti, quindi tutta una vicenda di cui abbiamo parlato molto spesso. Ebbene, per le persone che non hanno aderito all'offerta di transazione volontaria di qualche settimana fa, Veneto Banca annuncia adesso lo stanziamento di questi 30 milioni di euro. Avvocato Anastasi, da destinare a chi? Poi spiegheremo anche che le associazioni dei consumatori non sono contentissime di questa iniziativa, spiegheremo anche le ragioni, ma prima andiamo all'ABC di questa nuova proposta di Veneto Banca. Sì. La prima cosa, in realtà è riservata anche a chi ha aderito all'offerta di transazione. Ah. Esatto, cioè ci è stato illustrato ieri appunto questa iniziativa di welfare, che in realtà sarà riservata anche a chi ha aderito all'offerta, che era quella famosa offerta tra virgolette del 15% di ristoro sul diciamo valore delle azioni. Chiaramente chi ha già aderito a quell'iniziativa e quindi ha percepito questo famoso 15%, chiaramente quell'importo gli verrà decurtato. Avvocato, mi scusi, è a un viva voce per caso? Perché se no, fosse così, se si avvicina alla cornetta. Ecco, no, allora se si avvicina alla cornetta ci fa una cortesia, grazie. Meglio. Molto meglio, grazie. Ecco. Dicevo che quindi in realtà a questa iniziativa possono partecipare anche coloro che avevano già aderito all'offerta del sì. famoso 15%. Mentre questa offerta che come dire, è stata avviata dalla banca, è stata indicata come iniziativa welfare, è sostanzialmente un importo, come diceva lei, di 30 milioni, e l'iniziativa è stata strutturata in due tranche. Un fondo dell'importo di 20 milioni che è riservato sostanzialmente alle persone fisiche e alle ditte individuali, che siano in possesso di una serie di requisiti reddituali e patrimoniali che saranno poi meglio specificati nel regolamento che le interessati potranno ovviamente trovare sul sito della banca, e fondamentalmente che avranno un ISEE pari o inferiore a 13.000 euro, ma con la possibilità di presentare le domande anche per coloro che hanno un ISEE ordinario o comunque corrente fino a 26.000 euro. Con che criterio verrà ripartito questo denaro? Ci saranno una serie ovviamente di criteri che, come le dicevo, verranno meglio indicati poi nel regolamento. Chiaramente i redditi più bassi avranno percentuali di rimborso più elevate, quindi diciamo il criterio fondamentale è il reddito, quindi a reddito più basso corrisponderanno percentuali di rimborso più elevate. Si potrà arrivare anche al 100% secondo lei dell'investimento iniziale? Esatto, esattamente sì. Quindi, vabbè, insomma, questo... seguiremo. È già possibile, peraltro, leggo dal comunicato stampa, scaricare anche i moduli per fare richiesta appunto di questa dell'adesione a all'offerta Iniziativa Welfare, che si chiama, stavo rintracciando il nome, infatti. Iniziativa Welfare. Allora, oggi sì, ci hanno spiegato che appunto verranno inseriti appunto sul sito la modulistica e che però in realtà la documentazione, soprattutto l'ISEE, che è il documento principale, come dire, sappiamo che ha dei tempi di rilascio spesso non velocissimi, mentre l'idea è quella di cercare di completare tutta questa procedura entro l'estate e quindi procedere con i pagamenti a ottobre, pertanto il documento potrà essere poi prodotto anche in un secondo momento, cioè l'ISEE, proprio perché nel frattempo il cliente abbia modo di richiederlo e quindi di averlo. Tra l'altro abbiamo anche raccontato all'inizio della trasmissione che c'è anche la protesta della Consulta Nazionale dei CAF, che dal 15 maggio non rilascerà più gli ISEE perché sono scadute tutte le convenzioni con INPS e Ministero. Per cui abbiamo anche questo problema, per cui chi ce l'ha bene, chi lo deve fare, avrà qualche ritardo. Detto questo, in un minuto... Abbiamo anche fatto presente che potrebbe essere necessario poi magari avviare delle proroghe. In prima battuta l'idea è quella, come dire, cercare di stringere i tempi, proprio perché si fa riferimento a persone che da questa vicenda, vuoi per questioni reddituali, vuoi invece per quanto riguarda il secondo pezzo, diciamo, del fondo, quello il primo fondo, diciamo, sono 20 milioni di euro, il secondo sono 10 milioni di euro, e quello da 10 milioni di euro è, diciamo, destinato ad azionisti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti per aderire al fondo A, diciamo così, possano dimostrare di trovarsi in difficoltà economiche dovute anche a cure sanitarie, assistenza, perdita del lavoro dipendente, mobilità, cassa integrazione, pagamento di canoni di affitto, rate di mutuo, e quindi in via del tutto eccezionale anche una serie di cause che possono aver determinato l'impossibilità di far fronte a delle esigenze primarie delle persone e delle famiglie. Avvocato Anastasi, io adesso devo salutarla perché devo andare velocemente al secondo tema e mi rimangono appena 10 minuti di tempo. Avremo modo in un'altra occasione di parlare però del fatto che l'Associazione dei Consumatori, pur raccontando in maniera molto trasparente come funzionerà questo nuovo meccanismo di ristoro messo in piedi da Veneto Banca, in realtà a voi non è piaciuta molto la procedura perché continuano a fare le cose senza consultarvi preventivamente, c'è un metodo appunto condiviso, pur essendoci invece un impianto di conciliazione che è anche molto funzionante in Italia. Esatto. In passato è stato molto collaudato, in questa occasione quindi diciamo abbiamo molte perplessità. Benissimo. Ma resta il fatto che daremo tutte le informazioni agli utenti che vorranno aderire a questa iniziativa. Grazie avvocato Anastasi, a presto, andiamo a Vegas. Buona Le giornata. Modalità concrete di attuazione del bail-in hanno introdotto elementi fortemente distorsivi. In particolare si è rivelata infelice e poco ponderata la scelta di adottare la nuova disciplina con effetto retroattivo. Andrebbe riconsiderato anche il coinvolgimento degli obbligazionisti, ad esempio introducendo una soglia di salvaguardia a 100.000 euro analoga a quella prevista per i correntisti. Il primo provvisorio bilancio dell'applicazione del bail-in non può certo dirsi positivo. Le stesse regole che l'Europa si è data per assicurare stabilità si sono rivelate in questo caso un fattore di instabilità. Alla prova dei fatti, l'idea di circoscrivere ai soli investitori di una banca i costi del salvataggio si sta mostrando illusoria. Così nel corso dell'incontro annuale davanti agli operatori finanziari, il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, ha richiamato l'attenzione generale sul tema del bail-in, questo concetto anglosassone che identifica il nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie entrato in vigore il 1 gennaio dello scorso anno. Vegas, lo avete sentito, ne ha criticato alcuni aspetti, ma volenti o nolenti, lo scenario attuale di queste nuove regole è quello con cui si confrontano le famiglie italiane, in particolare quelle che hanno vissuto sulla loro pelle le recenti crisi bancarie pesanti. Tantissimi, quella intanto delle quattro banche risolte, Etruria, della quale torniamo a parlare in maniera prepotentissima proprio in queste ore, poi Banca Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti, c'è il caso Monte dei Paschi che è ancora insomma traballante, poi Veneto Banca di cui abbiamo parlato poco fa, Pop e Vicenza, non sono ancora queste banche risolte, sono banche appunto con delle varie difficoltà, ma sicuramente le nuove regole sono importanti da conoscere per tutte quelle persone che a vario titolo sono correntiste, obbligazioniste o azioniste di queste banche potrebbero trovarsi, speriamo di no, un domani a dover di nuovo affrontare queste situazioni. Allora, ribadendone quindi le regole fondamentali, cosa è necessario sapere oggi del bail-in e come tutelarsi nel caso che non si verificherà, ma nel caso dovesse verificarsi appunto un'altra crisi bancaria. Antonio Criscione, il Sole 24 Ore Plus 24, ben ritrovato. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Che potete anche vedere perché siamo in diretta Facebook. Certamente, allora aspetta che abbasso questo microfono qua che sennò ce lo copre. E poi Michela Sirtori, analista di Altro Consumo Finanza, ben trovata anche a lei dottoressa Sirtori, eccoci a noi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. 800 24 00 24 per le vostre domande in questi minuti che dedicheremo a questo argomento. Antonio, il presidente della Consob ha detto il bail-in va corretto quanto prima. Quali sono le criticità più rilevanti delle risoluzioni bancarie a cui si riferisce Vegas? È un tema che ci interessa molto visto che il suo riferimento è stato in particolar modo nei confronti dei detentori di obbligazioni bancarie. Il bail-in innanzitutto va detto in linea di principio è un meccanismo giusto, cioè nel senso che nel caso, voglio dire, ci siano difficoltà per una banca, viene chiamato a pagare non la collettività ma chi ha una responsabilità di un non solo, ma chi malagestio guadagnava con la banca, voglio dire, nel senso che c'è una precisa gerarchia dei titoli che vengono aggrediti, e vengono aggrediti prima quelli che in genere garantiscono un rendimento maggiore perché appunto sono più rischiosi, e quindi c'è questa cosa. Il vero problema, come dice Vegas, è un problema di modalità di attuazione, cioè nel senso che si è applicato retroattivamente. Questo ha portato due aspetti secondo me critici. Uno, che è quello lì del che cambia la qualità del rischio legato a un titolo, cioè nel senso che se prima un titolo era adeguato per una certa clientela, certo, perché in caso di problemi sarebbe intervenuto lo Stato a ricoprire le perdite, adesso non lo è più, voglio dire, quindi sono stati venduti dei titoli prima nell'ottica che sarebbe successa questa cosa e invece non è stato così. L'altro aspetto critico è che il bail-in nella direttiva BRRD, che è quella lì che l'ha introdotto, è in realtà uno degli ultimi passaggi possibili, per cui ci sono tutta una serie di meccanismi di early intervention che in questo caso, nel caso delle banche italiane o nell'applicazione retroattiva, non ci sono stati attuati, per cui voglio dire la direttiva prevede che si possa intervenire sul board della banca, sostituirlo, voglio dire fare tutta una serie di interventi che ovviamente in quei casi non sono stati fatti, è arrivata semplicemente diciamo la mazzata sugli obbligazionisti. Infatti Vegas propone appunto di introdurre anche per gli obbligazionisti una soglia coperta di 100.000 euro come avviene per i depositi, però appunto si parla anche di una revisione delle BRRD, speriamo che quando questo avvenga. Diciamo che forse ecco, questa voce bisognava tirarla fuori un po' prima, ad un anno e mezzo, però probabilmente adesso anche alla luce dei contro i pratici che le prime applicazioni appunto hanno avuto, è più facile fare un bilancio e quindi individuare quei punti in cui i correttivi sarebbe necessario apportarli, no? Dottoressa Sirto, rivengo anche a lei, magari possiamo ribadire un po' anche dal vostro punto di vista l'obiettivo delle nuove norme sulle crisi bancarie e cosa è necessario che un correntista, un obbligazionista bancario italiano sappia su queste norme, naturalmente fatto salvo il principio che speriamo abbia un'obbligazione di una banca con dei requisiti patrimoniali molto alti, quindi molto solida, ammettendo che una persona non corra rischi, però insomma anche alla luce di questa esperienza recente cosa bisogna sapere su tutto questo? Sì, certamente la prima cosa da sapere, la prima cosa a cui fare attenzione è sicuramente la scelta della banca, perché rispetto al passato in cui si potevano fare scelte dettate più dalla redditività del prodotto che dalla sicurezza, proprio perché c'era questa sorta di garanzia dello Stato che sarebbe intervenuto in caso di difficoltà, adesso gli investitori rischiano di pagare di tasca propria, quindi la prima cosa a cui fare attenzione è scegliere la banca giusta. Scegliere la banca giusta vuol dire anche appunto fare attenzione a questi coefficienti patrimoniali, verificare che la propria banca sia sufficientemente solida, e proprio per questo con Altro Consumo Finanza abbiamo avviato questo monitoraggio di pressoché tutto il settore bancario italiano, dando proprio un giudizio banca per banca sulla solidità, quindi non solo in termini convenienza o meno dei prodotti, che comunque è un altro aspetto a cui facciamo attenzione, ma proprio una classifica di solidità delle banche, e questo è sicuramente il primo aspetto a cui fare attenzione. Oltre a questo poi c'è da fare attenzione al prodotto che andiamo a scegliere. Parlavamo appunto delle obbligazioni bancarie, prodotto che spesso anche per via di una modalità di collocamento abbastanza spinta da parte delle banche è sempre stato considerato come un prodotto pressoché privo di rischi. Alla luce delle nuove normative non è più così, e quindi di nuovo quello che conta non è il rendimento, ma un rendimento corretto dal rischio di fallimento della propria banca. Però insomma, esatto, avere confidenza con tutte queste norme implica naturalmente interfacciarsi anche con un buon consulente finanziario che ci sappia dare tutte queste indicazioni con dettaglio, ma anche lì è un altro bel paio di mani, che trovare anche quello giusto, quello che ti accompagna. Proprio per questo cerchiamo di aiutare i nostri soci, aiutandoli ad interpretare queste informazioni. Certo. Sia ho una domanda, mi scusi, la interrompo solo perché ho pochissimi minuti, ma volevo almeno far intervenire un ascoltatore che è Riccardo da Cagliari, che saluto velocemente. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è questa: sono a rischio bail-in solo le somme sul conto corrente oltre 100.000 euro o anche eventuali titoli presenti sul conto titoli che superino tale importo? Grazie Riccardo. Dottoressa Sirtori, lei sa aiutarci? Certo, no, i titoli presenti sul conto deposito non sono a rischio. Sono patrimonio separato, generalmente vengono considerati. Esatto, no? È un patrimonio separato, certo. La banca si limita a fare da custode di titoli che sono comunque quindi, Riccardo, di proprietà dell'investitore. Quindi se la ha un banca titolo Eni Enel, un fondo di investimento, un prodotto di investimento appoggiato su un conto titoli, naturalmente quello non rientra eventualmente nel tetto dei 100.000 euro. Dei 100.000 euro garantiti. I 100.000 euro si riferiscono solo agli strumenti di liquidità, quindi i conti correnti e i conti deposito. Benissimo. Per esempio, non i titoli presenti appunto nel dossier titoli. Fanno ovviamente eccezione le eventuali azioni e obbligazioni emesse dalla stessa banca. Se nel conto titolo abbiamo un'obbligazione emessa dalla banca di cui siamo clienti, quella sì è a rischio e anzi viene nell'ordine di priorità prima delle somme presenti sul conto corrente. Benissimo, io vi ringrazio per essere stati con noi. Abbiamo dovuto dare spazio alla questione di Veneto Banca, quindi ne ho sottratto a voi colpevolmente, ma ci ritorniamo presto su questi argomenti. Soprattutto prenoto già per un'altra puntata Antonio, tanto non ha fatto molta strada, è sceso dal secondo piano, dal terzo piano, perché in realtà Vegas ha fatto anche un bilancio sull'attività responsabilità del recente arbitro bancario per la gestione delle controversie finanziarie che è stato istituito dalla Consob, è stato l'ultimo arbitro nato proprio in ordine cronologico nel nostro sistema, quindi faremo un punto della situazione sull'attività presso questo istituto e vedremo anche come andare eventualmente presso la Consob per denunciare qualche cosa che non funziona e dovremo individuare le regole appunto che ci portano su questa strada. Grazie molto ad Antonio volentieri. Criscione. Grazie a voi. A Michela Sirtori, io racconto velocemente la borsa, poi andiamo al mal di testa, non mi ricordo. Mal di testa, sì, mal di testa. C'è un cerchio qua. Esatto. Andiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. Se per amore io perdo la testa, la lascio cadere dal collo perché ho le teniamola su, teniamola attaccata e potete guardare come noi siamo belle qua con la nostra testa sul collo, non sempre. 800 24 00 24 per parlare di testa, potete guardarci, siamo in diretta Facebook e nel nostro studio è arrivata l'ospite dell'ultima parte di Cuore Denari con cui l'abbiamo introdotta già in apertura di trasmissione, ma Branduardi ci aiuta proprio ad andare nel tema. Parliamo di testa e di mal di testa. Qua con noi la professoressa Cristina Tassorelli, che è docente all'Università di Pavia e neurologa alla Fondazione Mondino di Pavia. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno a voi tutti, grazie. Allora, parliamo di mal di testa. Per un neurologo è un invito a nozze. Vi occupate di un disturbo molto diffuso, tanto da essere considerato per alcune persone una compagna di vita, una compagna quotidiana, quasi normale. Un disturbo, tra l'altro, che anche quando passa, come dice mia mamma, ti svuota, nel senso che lascia quel malessere come quando noi prendiamo una botta e ci sentiamo un po' tutti indolenziti. Professoressa Tassorelli, ho detto, ho anticipato agli amici che siamo nel cuore della settimana di prevenzione del mal di testa, è un'iniziativa che si svolge nell'ambito della seconda edizione della campagna I mal di testa, togliteli dalla testa. È una tappa di un percorso di informazione. È bello fare informazione ed educazione perché tanti errori si possono prevenire e quindi possiamo prendere un po' la situazione di petto e soprattutto in mano e quindi evitare e giocare e puntare sulla prevenzione. È una campagna che è voluta da Angelini e dalla SIN proprio con l'obiettivo di sensibilizzare e io aggiungerei anche educare le persone che soffrono di mal di testa a trattarlo, perché è un disturbo che si può prevenire e si può anche risolvere. Professoressa Tassorelli, iniziamo a parlare di questa bella iniziativa che porterà, che sta avendo grande successo. Sì, è un'iniziativa veramente lodevole perché fornisce delle informazioni importanti ai pazienti, perché chi soffre di mal di testa nella stragrande maggioranza dei casi ha degli attacchi che ricorrono. Sì. Che ricorrono più o meno frequente, possono essere più o meno intensi. Mal di testa ce ne sono tanti, noi ne riconosciamo decine, la classificazione dei neurologi riconosce decine di mal di testa, alcune sono un sintomo di una malattia come un raffreddore, ad esempio, come la febbre. Vedi che sa che noi facciamo anche il mese dell'apparato respiratorio a proposito di preparata. Naso, tutto collegato. In altri casi la cefalea non è associata a un altro problema, è essa stessa il problema e si manifesta in maniera a volte esasperante in alcuni pazienti. E allora le nostre terapie servono a gestire gli attacchi, servono a prevenire gli attacchi, però ci sono diversi dati che ci fanno capire che a volte questi attacchi possono essere prevenuti anche migliorando uno stile di vita. Homo faber fortune sue. Ma tu in questi giorni oggi vado di latino, da ieri hai cominciato con le tue citazioni, che ti è successo? È così, è il risveglio dell'anico, mi fermo qua, è tutto finito qua, professoressa Tassorelli, perché c'è proprio questa possibilità di essere seguiti da dei coach sul sito e anche da lei. Sì, sì, proprio nell'ambito della settimana di prevenzione del mal di testa sono stati elaborati dei filmati da tre coach, da tre esperti, uno che dà indicazioni, una è una healthy chef, una giovane signora che dà indicazioni sull'alimentazione corretta, sull'alimentazione sana, poi c'è un esperto di movimento, perché il movimento aiuta a mantenere ad esempio le posture corrette, aiuta a mantenere i muscoli rilassati, il movimento serve, perché il movimento, noi sappiamo che durante il movimento, durante l'attività fisica, liberiamo delle sostanze che fanno bene ai neuroni, non fanno bene solo ai muscoli. Quindi ecco, c'è un esperto anche di questo aspetto, poi c'è un altro esperto che dà consigli molto interessanti per un altro problema grosso di cui soffrono i nostri cefalangici, che è la gestione dello stress. Certo. Lo stress comporta tutta una serie di alterazioni, dalle contrazioni muscolari, dalle posture scorrette, dal modificare lo stile di vita, perché se sono stressato diventa anche più difficile mantenere i ritmi corretti. Mangio male, dormo male. Insomma, allora... E quindi ci sono proprio questi video che mettono insieme una serie di informazioni che ogni paziente potrebbe applicare a se stesso, migliorando la propria situazione. Migliorando anche la conoscenza del proprio mal di testa, sì. Perché spesso non sappiamo di che tipo di mal di testa soffriamo. E allora oggi all'800 24 00 24 vi invitiamo a raccontarci il vostro mal di testa. Quando insorge, questo è importante, sì. Se c'è qualche cosa che lo scatena, per molte amiche ad esempio è il ciclo mestruale, o all'inizio... È un segno della famosa sindrome premestruale, ma ci sono anche le posture, magari quando siamo particolarmente stanchi diamo la colpa alla stanchezza. Ad altre persone invece il mal di testa viene scatenato da alcuni alimenti, in particolare il vino, i formaggi stagionati, sì. Ma ciascuno è diverso. Professoressa Tassarelli, lei quando si è infilata le cuffie mi ha detto: se dovessi tenerli per un'ora, eccola, ci... Le scoprirebbe un mal di testa. Attacco d'emicrania, sì, ormai io mi conosco. Infatti questa iniziativa è lodevole, anche perché nell'ambito, in questo sito dove ci sono i filmati degli esperti, c'è anche la possibilità di scaricare un'app, un sistema che permette al paziente di monitorare i propri sintomi e soprattutto di monitorare i possibili fattori scatenanti, perché sono tantissimi e in genere sono personali. Nel senso che non tutti gli emicranici, se si mettono le cuffie, hanno mal di testa. Io dopo un'ora che tengo una cuffia che mi stringe così, mi parte un attacco di emicrania, e se non lo fermo... Ecco, e se non lo fermo, allora che cosa vi fa scoppiare la testa? 800 24 00 24 e poi che cosa succede? Riuscite a fermarlo subito o invece tendete ad aspettare che passi da solo? Professoressa Tassarelli, ho bisogno di lei, che è una grande esperta, proprio a 360 gradi, per aiutare i nostri amici a capire un po' le differenze dei tipi di mal di testa. Partiamo da quelli più comuni, da quelli che colpiscono più persone, quello tensivo e poi l'emicrania. Ma sì, come si presentano? Sono molto diversi tra loro. Allora, cefalea di tipo tensivo è forse la cefalea più frequente, si calcola che ne soffrano fino al 60% della popolazione generale. È caratterizzata da un dolore non particolarmente intenso, di solito continuo, i pazienti lo descrivono spesso come un casco, sì, o una fascia, e non ha tanti sintomi associati, c'è proprio il dolore, questa tensione, basta. Un'altra storia è l'emicrania. L'emicrania è un po' meno frequente, si calcola che ne soffra dal 14 al 18% della popolazione generale, quindi non poche persone, tante persone. E l'emicrania si manifesta con un dolore invece di solito intenso, disabilitante. Mi spacca la testa, limita l'attività quotidiana. Di solito, giustamente, come dice lei, è un dolore pulsante, come un martello che picchia, oppure come un coltello che trafigge, comunque è un dolore vivo, proprio un dolore fastidioso, terebrante. E l'emicrania non è solo dolore, perché tanti pazienti dicono che loro sono disabilitati, oltre che dal dolore, anche dai sintomi associati, che sono nausea, a volte hanno proprio vomito di bile, vomito alimentare, sì, fastidio per la luce, fastidio per il rumore. E l'emicranico, mentre il soggetto con cefalea di tipo tensiva non dice devo coricarmi perché non riesco più a fare niente, l'emicranico di solito si dice mi devo coricare, possibilmente a letto, possibilmente al buio, possibilmente senza rumore, ed aspettare che questo attacco passi. Aspettare che questo attacco passi. Professoressa Tassorelli, quando scoppia il mal di testa, che cosa bisogna fare? Meglio intervenire subito e bloccarlo o andiamo a capire un po' che, come si comporta, se è un attacco breve oppure... Allora, cosa dobbiamo il mio fare? Consiglio no, il mio consiglio è di intervenire più precocemente. Noi interveniamo con i farmaci sintomatici, più maggiori sono le possibilità che il fenomeno si fermi, perché noi neurologi conosciamo l'emicrania come una specie di cascata di eventi che è come una specie di valanga. Se io la fermo quando è ancora piccola, ho maggiori possibilità che si fermi lì e non faccia danni. Se io la lascio andare diventa più difficile fermarla e allora diventa anche più difficile bloccare il corteo sintomatologico che è piuttosto ricco, di cui parlavamo prima. Quindi non facciamo gli eroi, non stringiamo i denti, liberiamoci di questo mal di testa, ma soprattutto cerchiamo di capire qualche cosa di più del nostro mal di testa, non subiamolo. Suggerite infatti di fare una sorta di diario anche del mal di testa, un po' come si fa il diario alimentare. Importante, perché è importante, professoressa Tassorelli? Che cosa il medico può imparare dal nostro diario? Quali informazioni sono utili? Così suggeriamo anche ai nostri ascoltatori di spifferarle al nostro numero verde. Allora, il diario ha dei benefici multipli, perché appunto uno proprio banale è nei diari che noi utilizziamo e in questa app che trovano sul sito c'è proprio una parte dedicata ai fattori di innesco. Sì. Ti è venuto un attacco, prova a pensare che cosa è associato a quell'attacco. Quindi questo è un aspetto che salta fuori dai diari, a volte in maniera anche inaspettata per il paziente. Tu guarda, non pensavo che fosse quello e invece guarda che è proprio quello. Poi invece serve per valutare la risposta alla terapia. Certo. Sintomatica, perché nei diari che diamo noi, proprio quelli più professionali, il soggetto deve segnare quando è cominciato il dolore, quando è finito, l'intensità, quando ha preso il farmaco, e quindi riusciamo a capire anche se sta assumendo il farmaco secondo le modalità corrette e se quel farmaco è funziona efficace. E poi anche quante volte viene, perché il mal di testa è così debilitante che tendiamo magari a dire ho sempre mal di testa, ma quanti sono effettivamente gli attacchi? Oppure si trascura, ne ho mal di testa ogni tanto, però invece è importante sottolineare la durata. Valerio, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Napoli, benvenuto. Buongiorno a lei. Salve. Allora Valerio, mi faccia così, mi fa un lancio del traffico, che oggi tocca a lei, e poi ritorniamo insieme. Vada, allora siamo a cuore denari, Valerio, tocca a lei. Perfetto, le condizioni del traffico. A tra poco. Cuore e denari. A volte è proprio lo stress che ci fa scoppiare il mal di testa. Ne parliamo tra poco con la professoressa Tassorelli, ma prima abbiamo un appuntamento molto importante con Valerio, che ci chiama dalla provincia di Napoli. Buongiorno Valerio. Buongiorno, è stato il nostro uomo del traffico oggi, l'uomo del lancio. Peraltro sono nel traffico, per cui è evidente che insomma ci sia una correlazione. No, dunque volevo chiedere alla professoressa esiste una correlazione in termini di causa-effetto tra il fumo di sigaretta e l'insorgere del mal di testa. Io, insomma, nel corso degli anni ho sempre individuato quale causa del mio insorgere del mal di testa, appunto, il fumo di sigaretta, specie nelle occasioni in cui esagero il consumo. Questa è quasi una fortuna, così smette Valerio. No? Esattamente. Professor Boffi è felice. Professoressa Tassorelli, un aiuto per Valerio, che se no può anche cercarlo poi sul sito imalditesta.it. Malditesta.it. Potrebbe esserci una relazione, non ci sono dati scientifici in questo senso, però ragionando in termini così di causa-effetto potrebbe esserci, perché tanto fumo vuol dire anche ridurre un po' i livelli di ossigeno del sangue e il nostro cervello ha bisogno di tanto ossigeno per poter funzionare bene, per cui questo potrebbe essere uno dei motivi per cui quando lei fuma tanto gli attacchi vengono di più. Un'altra possibile causa che associa il fumo al mal di testa è che ad esempio l'emicranico riconosce spesso l'odore, gli odori, come fattori di scatenamento del mal di testa. Di solito si indicano magari i profumi, no? Sì. Profumi intensi possono essere... Quel profumo che mi dà mal di testa. Noi parliamo di osmofobia, che è il termine tecnico per indicare proprio il fastidio che danno. E immagino che se uno fuma tanto... Allora Valerio, lei lo sa che noi a Cuore Denari abbiamo proprio uno spazio gestito dal dottor Boffi dell'Istituto Nazionale dei Tumori e dalla dottoressa Munarini, che è una psicologa, che aiutano i nostri amici che vogliono provare a smettere o a rismettere di fumare. Valerio, perché non va a fare un saltino lì sulle nostre pagine? Dai. Secondo me è importante, al di là del mal di testa, credo che sia proprio Valerio, ci darebbe una grande soddisfazione, oltre il nostro uomo del traffico di oggi, anche il nostro ascoltatore che ha deciso di smettere di fumare in diretta e ci è riuscito. Valerio, ci tenga molto, molto, molto, molto aggiornati. Allora, andiamo a Consuelo da Bologna. Buongiorno, Consuelo. Buongiorno, buongiorno. Posso solo dire intanto che vi adoro. Bravo. Se potessi sempre ascoltarvi, sarei sempre attaccata da Radio 24 solo per noi, Consuelo. Esatto. Mamma mia, che soddisfazione, che carina, grazie. Grazie, Consuelo. No, è la verità. Allora, adesso la professoressa Tassorelli è tutta per lei, Consuelo. Eccomi. Eccola vorrei lì. Tanto mi potesse aiutare. Sì. Non so se è un caso atipico o meno, comunque a me viene il mal di testa sempre il venerdì notte, cioè proprio durante la notte già mi sveglio sentendo questo dolore che diventa sempre più forte. Mi parte da dietro l'occhio sinistro, quindi solo la parte sinistra e sempre solo la sinistra, come se mi stessero trapanando dietro l'occhio, e poi si irradia pian piano per tutta la l'emitesta, tutta la metà della sinistra della testa. E sempre viene di venerdì. E sempre viene a meno che lei il sabato il lavori. Non lavori. Brava. Ecco. È quella, vedi, si intrecciano il weekend. Non hai detto nulla, vero? Di questa cosa qua che ho beccato il mal di testa da weekend. Professoressa Tassorelli invece... Lo conosco, succedeva anche a delle persone a me molto... Allora, capita, la cefalea dal weekend che nella maggior parte dei casi è un'emicrania. Infatti quello che dice la Consuelo, dolore unilaterale dietro l'occhio, è probabilmente un'emicrania. E riconosce due fattori, riconosce tanti fattori, però se ne devo nominare due, appunto uno potrebbe essere il relax dopo lo stress, perché è vero che lo stress fa venire mal di testa, però è vero che alcune persone sono più sensibili al relax. Ci sono alcuni emicranici che nel periodo in cui sono sottoposti a stress non hanno attacchi, è come se il corpo dicesse non te lo puoi permettere adesso. Sì. Però poi appena mollano la tensione pagano dazio dopo. Quindi in alcune persone, magari quelle che fanno anche un lavoro piuttosto impegnativo, il mal di testa si manifesta proprio come espressione del venir meno dello stress. I vasi si dilatano perché sono libero meno catecolamine, che sono quelli che li tengono stretti, e quindi parte l'attacco. Un'altra cosa, questa la dico a Consuelo perché magari può considerarla come fattore modificabile, che a volte questi mal di testa sono legati anche alla variazione della quantità di caffeina che viene introdotta, perché magari durante la settimana si lavora, si prendono 5-6 caffè al giorno, fine settimana niente più caffeina, lì la caffeina è un'altra sostanza che ha un po' d'azione di vasocostrizione, se non la prendo i miei vasi si dilatano di più e allora l'emicranico è più facile che sviluppi un attacco. Noi dobbiamo tornare, insomma, a essere un po' abitudinari per certi versi, soprattutto se soffriamo di mal di testa, e anche inserire delle buone abitudini. Stavo pensando allo stress di Consuelo, che un po' condividiamo tutti, quindi nell'arco della giornata imporsi, e non dico cercare di, ma imporsi di prendersi quei 3 minuti di spazio. Ci sono tante indicazioni, dalla meditazione alla respirazione portateco, posizioni yoga, asana, che si possono anche imparare sul sito o sui siti o farsi fare una chiacchierata con un maestro. Si stacca 3 minuti e si vede che alla fine della settimana tutte queste piccole gocce di benessere riempiono una metà bicchiere, che possiamo vederlo finalmente mezzo pieno. Quali altre attenzioni, consigli, raccomandazioni possiamo dare agli amici che si riconoscono in Consuelo o nelle persone che insomma devono fare i conti frequentemente con un mal di testa? Consigli alimentari, consigli di gestione dello stress, attività fisica, qual è la buona attenzione, che il buon consiglio che possiamo provare a seguire per vedere poi i risultati? E sono tanti i consigli che possiamo dare e riguardano un po' tutte queste sfere che lei ha toccato. Partire dal sonno, è importante una buona igiene del sonno, non è una buona cosa per chi soffre mal di testa magari dormire 4 ore per 2 notti di seguito e poi recuperare dormendo 10 ore, sarebbe più opportuno dormire una quantità di sonno sufficiente e regolare. Attività fisica, giusto, vanno benissimo i break dove uno mette in atto quelle metodiche che può imparare magari con un esperto per rilassarsi, oppure può mettere in atto quelle metodiche di correzione posturale. Se noi facciamo un lavoro sedentario a una scrivania, molto spesso avremo delle anomalie posturali, per cui almeno 5 minuti ogni 2-3 ore correggere queste posture vuol dire che distende i nostri muscoli e magari aiuta a non far partire il mal di testa. E poi c'è l'aspetto dell'alimentazione, anche lì diventa difficile dare un consiglio unico perché sono consigli che vanno messi insieme, per cui bisogna mangiare ad orari abbastanza regolari, non bisogna saltare pasti perché l'ipoglicemia può far venire insomma, mal di testa. Insomma, dovete diventare quasi perfetti. Però ce la possiamo fare. È un gioco che paga. È un gioco che paga, dice la professoressa Tassorelli. Grazie alla professoressa Tassorelli. Ricordiamo questa bella iniziativa, questa settimana della prevenzione. C'è un sito, imalditesta.it. Professoressa Tassorelli, grazie. Grazie a voi che ci avete seguito. Scriveteci, perché molte domande sono arrivate. Le gireremo alla professoressa Tassorelli. Noi torniamo domani e quindi mi raccomando, non mancate. C'è giovedì. È giovedì, la scuola di risparmio. Buona giornata a tutti.